Storie, storielle, storiacce di Raffaella Calandra. In carcere ho incontrato la maggior parte di coloro che sono stati rapiti da tutte le parti del mondo. La voce che state ascoltando è quella di Osama Mustafa Hassan Nasr, vale a dire Abu Omar, l'islamico sequestrato nella via di Milano, per dirla con le sue stesse parole, con cui si presenta in un memoriale fatto arrivare ai magistrati di Milano. Ci parla dall'Egitto Abu Omar, l'uomo la cui vicenda, dopo aver svelato al mondo la pratica dell'extraordinary rendition, si è trasformata in un caso diplomatico internazionale, col processo a Milano per gli ex vertici del SISMI e agenti della CIA, e poi in uno scontro interno italiano tra la politica e la procura di Milano a colpi di ricorsi e controricorsi, segreti di Stato e precari equilibri. Dieci pagine in totale ha scritto di suo pugno Abu Omar, pagine arrivate in due momenti in procura a Milano, così ce le sintetizza lui stesso. Ha depositato al Tribunale di Milano un diario, la seconda parte di un memoriale. Che cosa racconta? Detto, questa carta che lui ha dato al qua, allora praticamente parla, spiega come è stato lui catturato da tramite loro, e come è stato trattato anche quando loro hanno trasferito lì alle prigioni in Egitto, come lui l'hanno chiesto anche come ha fatto uscire questo documento qua del prigione, come, perché è una cosa difficile. Come fai a uscire questo documento del prigione? Lui ha scritto come ho fatto io uscire, come sono riuscito anche a mandarlo fuori alla famiglia o all'amico che lui ha preso questo documento. La quarta cosa, poi spiega anche come lui pretende da tornare ancora in Italia, di uscire ancora di quello che c'è adesso e tornare alla sua vita normale. Lui è consegnato tanti mesi fa al suo avvocato 11 foglie, poi ha mandato altri 4, per cui sono un totale 16. Esattamente, in questi ultimi 5 fogli racconta anche della sua liberazione, c'è qualche episodio che racconta, qualche fatto interessante. Come è stato lui trasferito dall'Italia in Germania, poi da Germania in Egitto, la liberazione. Ecco, a proposito di questa liberazione, ad esempio, spiega, dice qualcosa su che cosa gli hanno detto, perché l'hanno liberato? Lui sta dicendo che queste foglie erano tutte scritte insieme, però è stata sua moglie a dimenticarli, queste 5 foglie. Da Milano ad Aviano, passando per la Germania e poi l'Egitto, il Cairo, queste le tappe che hanno portato Abu Omar, egiziano, classe 1963, da via Guerzoni a Milano alle prigioni di Alessandria e poi del Cairo, dove è rimasto mesi, prima di essere definitivamente liberato dopo una prima e breve uscita dal carcere. Era pieno giorno e stava camminando poco lontano da casa sua, Abu Omar, quando ad un certo punto sparì. Parla anche di italiani in questi fogli. Lui specialmente specifica su queste foglie che lui da un mese e mezzo prima di questo fatto lui vedeva delle cose strane, come una macchina seguiva lui, hanno messo una camera lì per controllarlo, per sentire cosa parlava. La moschea ha visto delle persone che fanno un movimento un po' strano dietro di lui, però lui non ha mai immaginato, pensava che una cosa normale, invece non era una cosa proprio, era proprio una cosa studiata per poterlo rapire. Il giorno in cui fu rapito, sentì delle persone che parlavano italiano. Quante persone potevano essere? كان راكب عربية 172 وقفني اللي أنا قلت ملامحه قبل كده وكده وأخذ مني الجواز اللجوء السياسي والأوراق الإيطالية بتاعتي واتصل بأحد أرقام التليفون أنا مش عارفها كان بيتكلم معاهم بالإيطالي. La persona che l'ha fermato per chiedere i documenti che parlava italiano. Poi dopodiché una volta rapito non ha più sentito niente né inglese né italiano. Hanno proprio, cioè, lui non sapeva niente. La versione dell'ex imam sul suo rapimento contraddice la tesi del finto sequestro di un consenziente proposta in Parlamento dall'ex direttore del SISMI Nicolò Pollari. Al contrario, Abu Omar conferma di essere stato picchiato a sangue. Quel giorno in via Guerzoni accerta l'inchiesta dei sostituti procuratori Armando Spataro e Ferdinando Pomarici. Di sicuro c'erano agenti della CIA e di sicuro c'era almeno un italiano, il maresciallo del Rosso, Luciano Pironi, che ha confessato la sua partecipazione al sequestro. Ma era l'unico italiano? Stando a quello che ora racconta a noi Abu Omar, solo da una persona sentì parlare in italiano, ma lui stesso tempo fa aveva dichiarato in un'altra intervista di essere stato preso e portato via da due italiani. Sarà l'iter del processo dunque a ricostruire cosa avvenne esattamente quel giorno e poi soprattutto chi e cosa sapeva o decise di quell'operazione nei vertici dei servizi segreti militari italiani. Un processo che ora però riprenderà solo il 24 ottobre in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal governo. La sospensione decisa dal giudice ma mal digerita dalla procura accoglie la richiesta della difesa di Nicolò Pollari, ex direttore del SISMI, il più eccellente tra i 33 imputati del processo per il rapimento Abu Omar. Insieme a lui, capicentro SISMI, l'ex direttore dell'antiterrorismo Marco Mancini e 26 agenti CIA. Ma perché questo rapimento? Abu Omar dall'11 febbraio 2002, in piena emergenza antiterrorismo dopo l'11 settembre, era sotto indagine a Milano, sospettato di avere legami con organizzazioni islamiche estremiste. E un mandato di cattura fu emesso nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari Guido Salvini. Ma cosa voleva sapere da lui la CIA? Abu Omar ci risponde così. Durante gli interrogatori che lui ha subito in Egitto, in Germania e poi in Egitto, ecco, cos'era l'argomento principale che gli chiedevano? L'hanno chiesto quasi come uno che racconta la sua vita, che faceva come attività, che conosceva a Milano, come faceva la moschea, perché sei andato fuori, perché sei venuto, perché sei sposato. Queste le cose che... uno che vuole sapere tutto dalla sua il ruolo di vita, da queste cose qua vogliono scoprire delle cose che loro non sapevano, invece lui non aveva niente da scondere, come diceva lui. Furono interrogatori feroci a suo dire e non mancarono le torture crudeli da lui più volte denunciate. Dei giorni della sua prigionia Abu Omar racconta anche di essere riuscito ad evitare numerosi altri sequestri di islamici come quelli avvenuti in diversi paesi di Europa, stando all'inchiesta del parlamentare europeo Dick Martin sulle prigioni della CIA. In carcere ho incontrato la maggior parte di coloro che sono stati rapiti da tutte le parti del mondo. Nel periodo tra il 20 aprile e il 13 maggio 2004 sono stato trasportato in uno degli uffici più grandi delle forze di sicurezza egiziane al Cairo, racconta ancora Abu Omar, che nel suo memoriale ci descrive la sua prigionia. Avevo le mani e i piedi legati, ma la benda sugli occhi non era così stretta, si legge. Mi hanno introdotto in una stanza dove ho parlato con un alto ufficiale. Ripercorre le fasi del suo sequestro Abu Omar, come abbiamo sentito dalla sua stessa voce, ma in questo memoriale svela anche inquietanti retroscena su presunte oscure manovre dei servizi segreti, a cominciare da quelli egiziani. Le autorità di sicurezza egiziana mi hanno proposto $10,000 e un lavoro da imprenditore in cambio della rinuncia alla mia difesa nel processo in Italia. Mettere a tacere tutto, insomma. Quando il caso ormai era scoppiato, l'intelligence cercò di spegnerlo con questa offerta, a quanto rivela lo stesso Abu Omar, e con l'obiettivo di evitare l'imbarazzo di un processo. Ma questo non sarebbe l'unico tentativo di avvicinamento, diciamo così, nei confronti dell'ex imam rapito dalla CIA. Come lui stesso ora ci rivela, proprio i servizi segreti americani gli avrebbero fatto arrivare un'allettante proposta: soldi e tutela per il futuro, in cambio, ancora una volta, di una totale marcia indietro rispetto alle sue denunce. Un accordo sottobanco che Abu Omar però non accettò, e si gonfia di rabbia ancora oggi la sua voce quando ci spiega cosa gli proposero. Quando ha avuto questa offerta di $2,000,000, ecco, com'è andata? Sa se sono americani, inglesi? Abu Omar, Allah yakrimak. Qul. بخصوص العرض اللي هم عرضوه عليك. مين بالظبط كانوا امريكان ولا كانوا لا هو العرض ده تم في السجن اللي انا كنت فيه في سجن سيبال طرق يعني عن طريق ناس مصريين مسؤولين ولكن انا لن استطيع ان اذكر اسمائهم وكده لكن مصريين هم اللي tramite persone lui non vuole dire anche nome e cognome perché per lui persone importanti nella parte egiziana sì. Hanno proposto questo hanno tenuto questa trattativa di darlo $2,000,000 più la cittadinanza americana sia per lui sia per la famiglia. In cambio? Lui ritira completamente qualunque denuncia contro la questa faccenda completamente per ritirare tutto. Loro hanno detto, lui ha accettato questo, però lui ha detto davanti al mio avvocato, davanti anche alla giustizia italiana, loro hanno rifiutato questo, loro hanno detto sotto tavolo, cioè per cui non deve essere nessuno che sa questa storia qua. Anche ora che è libero, diciamo, o meglio, anche ora che è uscito dal carcere, per lui vige l'obbligo di non parlare con la stampa, limitazione che però, ad onor del vero, fin da subito Abu Omar, con la mediazione del suo legale egiziano Montasser Al-Zayat, ha trascurato e continua a fare, rilasciando a noi questa intervista. Ha tanta voglia di parlare l'ex imam, il cui nome ora è noto un po' a tutti in Italia. Ripete il suo desiderio di rientrare nel nostro paese, confidando anche, come ci racconterà tra poco, in un aiuto a suo dire già una volta avuto dal Ministero della Giustizia italiano.